Lora rimase seduta a pensare, coccolando il gattino. Adesso i suoi pensieri avevano un altro colore. Quella fiduciosa soddisfazione, quella sensazione di calore sulle ginocchia la cullavano con l'esempio. La convinzione di aver stretto un patto con il diavolo non aveva vacillato in lei un solo istante, e ora quel pensiero le stava diventando familiare. Aveva l'impressione di aver passato la maggior parte della vita ad abituarcisi, pur senza rendersene conto, come la gente passa la maggior parte della vita ad abituarsi al pensiero della morte. Quando poi la morte arriva è una sorpresa, ma una sorpresa che non dura a lungo, forse non più di un paio di minuti. Anche la sorpresa che aveva provato lei andava dileguandosi. Presto avrebbe potuto incrociarvi sopra le mani, come le mani dei morti vengono incrociati sui loro cuori stupiti. Il suo cuore, però, batteva ancora, batteva con il ritmo consueto, un lieve battito regolare che la spingeva di momento in momento nella nuova vita di strega che si apriva davanti a lei. Dato che la sua carne aveva già accettato quel nuovo ordine di cose e procedeva così metodicamente verso il futuro, tanto valeva, pensò, cercare di riadattare alle nuove circostanze anche il suo spirito. Alzò lo sguardo e osservò la sua stanza, le pareti verdi e le sedie silenziosamente disposte tutte intorno. Percepì se stessa nella casa vuota. Attraverso il quadrato impenetrabile della finestra, la sua mente guardò il paesaggio. Intorno alla casa vuota c'era il paese e intorno al paese le colline, una presenza amica sotto la coltre della notte. La stanza, la casa, il paese, le colline la circondavano come le mura concentriche di una fortezza. Quello era il suo dominio ed era per mantenerlo inviolato che aveva stretto un patto con il diavolo. Non sapeva che prezzo avrebbe pagato, ma era sicura dell'affare concluso. Non aveva più niente da temere da Titus né dagli altri Willhouse. Non potevano cacciarla di lì, rendere schiavo il suo spirito e nemmeno mettere in dubbio il suo diritto di proprietà sul posto che si era scelta. Finché viveva, i luoghi della solitudine erano suoi in modo inalienabile. Lei e il gattino, la strega e il suo demone, sarebbero rimasti a vivere a Great Mope, invecchiando insieme ascoltando il grido delle civette dagli alberi d'inverno. E poi? Mistero. Ma che altro c'era mai stato? I verdi tumuli erbosi nel cimitero erano troppo alti per poter vedere dall'altra parte. Chi mai poteva ergersi sulla loro sommità e guardare oltre? Non provava né paura né disgusto. Strega, da poche ore, respingeva con lo sdegno dell'iniziato tutte le fantasie orripilanti che la gente ha rispetto a certe cose. Guardava al futuro con serena curiosità e lo vedeva ben poco diverso da come aveva sperato e progettato. Fosse stata chiamata a scegliere, a sangue freddo, se fare la zia o la strega, forse l'abitudine e la vigliaccheria degli scrupoli di coscienza avrebbero avuto la meglio. Ma al momento buono, pressata dall'angoscioso subbuglio della Lolly braccata che la opprimeva come una coltre di buio, la vera Lora se n'era uscita con fiuto infallibile. Aveva saputo a chi rivolgersi. Era come la bambina della fiaba a cui la madrina dà una scatoletta fatta con un guscio di noce, raccomandandole di aprirla nel momento del bisogno. Ignorato dagli altri e quasi dimenticato anche dalla bambina, il guscio di noce aveva saputo aspettare e a tempo debito si era aperto. Così, senza rendersene conto, Lora aveva in tasca il suo talismano. Era una strega per vocazione. Anche ai vecchi tempi di Lady Place, quell'impulso era stato vivo in lei. Che cos'altro poteva averla spinta alle sue lunghe passeggiate solitarie, alla ricerca di erbe potenti e dimenticate, alla passione per estratti e distillati? A Londra non aveva più avuto il coraggio di tirar fuori il suo alambicco. Resa più pressante dalla negazione di quello sfogo innocente, la potenza che governava la sua vita l'aveva presa d'assalto con sogni e intimidazioni, chiamando la sua fantasia a uscire dalla sicurezza della sua stanza calda per vagare su campi bui e coste desolate, per acquitrini e paludi, al limitare di boschi misteriosi. L'aveva trascinata a Wapping e al cimitero ebraico, poi, liberandola come per beffa, l'aveva lasciata lì, a onorare i morti e a ritrovare la strada in Apsley Terrace. Non sapeva dire come fosse arrivata a Great Mope, se fosse stato di sua pura volontà o se passando dalle minacce, dal dileggio alla dolce persuasione, il maligno avesse infine avuto pietà del suo disorientamento e l'avesse condotta per mano nel negozio di fiori di Moscow Road. Comunque fosse, dall'istante in cui vi era entrata, il demonio non era mai stato lontano. Sicuro di lei, così lo immaginava, per 9 mesi si era limitata a osservarla. Vicino, ma sempre nascosta alla vista, l'amoroso cacciatore in agguato nei boschi l'aveva costantemente seguita con lo sguardo e a poco, mentre era nei boschi o a caccia tra le colline, le si era avvicinato. Si era nascosto nel pozzo quando lei aveva gettato la cartina e la guida. Si era seduto nel forno a insegnarle di quale potere avrebbe potuto disporre sulle forme degli uomini. Aveva seguito lei e Mr. Saunter su e giù per i pollai. E più che mai, le era stato vicino quella notte in cui era salita a Cabay Ridge, così vicino che lei ne aveva sentito la presenza e si era spaventata. Quella notte doveva proprio esserle arrivato a una spanna di distanza, ma forse la sua paura lo aveva tenuto alla larga o per qualche altro motivo lui aveva deciso di non prenderla in quel momento, preferendo restare a osservarla fino a quando fosse riuscito a vincere la sua sfiducia e ad attirarla nella propria rete. Perché Satana non è soltanto un cacciatore. L'interesse che nutre per il genere umano è quello di un abile ed esperto naturalista. Persino i cacciatori umani, alla fine della loro carriera, dichiarano che girare per i boschi è più divertente che star seduti dietro al calcio di un fucile a sparare alle pernici scovate dai battitori. Era del tutto probabile che il demonio, che cacciava dal principio dei tempi e in quel periodo doveva sentirsi un po' sfiancato dalle recenti carneficine nelle Fiandre, pensasse che il proprio interesse per un beccaccino solitario come l'ora sarebbe bastato prima o poi a metterle il sale sulla coda. Tuttavia, egli deve cacciare. È il suo destino. E che cacci con un fucile o con una reticella da farfalle, prima o poi l'inseguimento deve finire. Tutte le conclusioni, buone o cattive, regalano un senso di sollievo. E ora che capiva quanto era durata la caccia, Lora provava una specie di soddisfazione per essere stata infilata nel sacco. Un rumore di passi la distolse da queste interessanti riflessioni. Li sentì anche il gattino che si mise a sedere sbadigliando. I Licca che tornavano dalla conferenza, pensò Lora. Invece era Titus. Facendo capolino dalla finestra, chiese se poteva entrare a prendere in prestito un po' di latte. Non ne ho, rispose Lora, ma entra lo stesso. Prese a grattare il gattino dietro le orecchie per rassicurarlo. Nella luce della lampada la testa di Titus sembrava arrivare ancora più vicino al soffitto e col suo senso delle proporzioni Lora tirò un sospiro di sollievo quando il nipote si sedette. Il latte che Mrs. Garland gli lasciava sul tavolo del soggiorno per la sua cioccolata serale, spiegò, si era cagliato nel bricco, trasformandosi in una specie di immonda giuncata, fenomeno che Titus attribuiva all'istruzione popolare e alla diffusione della scienza fra i produttori di formaggio. In altre parole, Mr. Dodbury aveva esagerato con il conservante. «Credo che la scienza non c'entri», disse Lora, «più probabilmente è colpa del tempo». Oggi pomeriggio è stato molto afoso. Ti ho vista uscire dal paese. Avevo una mezza intenzione di accompagnarti, ma faceva troppo caldo per fare il nipote affettuoso. Dove sei andata? Su al mulino. E hai trovato vento? No, eppure non andavi in direzione del mulino quando ti ho vista passare. No, ma poi ho cambiato idea. A proposito del latte, riprese, Titus era venuto per quello. Forse se gli avesse ricordato che era venuto invano, se ne sarebbe andato. Le stava venendo sonno. Mi spiace, ma non me ne è rimasto neanche un goccio. L'ho dato tutto al gattino. Stavo appunto guardandolo. È un nuovo arrivato, vero? Brutto demonietto. Il gattino se ne stava tranquillamente sdraiato sulle ginocchia di Lora. Osservava Titus con i suoi occhi chiari e sbatteva le palpebre con indifferenza. Aspettava solo che se ne andasse, pensò Lora per riaddormentarsi. Da dove viene? L'hai salvato dal barile dell'acqua? No, l'ho trovato qui quando sono tornata per cena. Il nostro piccolo cagliostro non è nulla di eccezionale, eppure se fossi in te lo terrei, ti porterà fortuna. Quanto a questo, con i gatti c'è poco da scegliere, osservò Lora. Se vorrà restare con me, ci resterà. Sembra proprio che si sia ben accomodato. Tienilo, zia Lolly, un gatto in braccio dona sempre a una signora. Lora chinò il capo in segno di assenso. Come lo chiamerai? Dai suoi ricordi emerse una figura che aveva visto molto tempo prima in uno dei libri della biblioteca di Lady Place. Parlava della caccia alle streghe e l'incisione raffigurava Matthew Hopkins, il loro persecutore, con un ampio cappello in testa, in piedi tra un gruppo di streghe legate con le gambe incrociate agli scranni della penitenza. Le confessioni uscivano loro di bocca, scritte su pergamene. Il nome del mio demone compagno è Ile Mausar, diceva una. E in basso un altro demone, un gatto sgraziato e dall'aria sveglia, così magro e muscoloso che sembrava una lepre, pelle e ossa. Si chiamava Aceto. Lo chiamerò Aceto, rispose Lola. Aceto, ripeté Titus. Ti piace il tuo nome? Il gattino drizzò le orecchie, balzò giù dalle ginocchia di Lola e cominciò a giocare con l'ombra di Titus, in un susseguirsi di finte ritirate. Lola osservava le sue schermaglie con un po' di apprensione, ma il gatto non gli fece alcun male. Si era svegliato dal lungo sonno con la voglia di giocare, tutto lì. Quando Titus se ne fu andato, Aceto la seguì nella sua camera e mentre lei si spogliava continuò a saltellare intorno, toccando leggermente con la zampa i suoi vestiti a mano che se li sfilava. La mattina dopo la svegliò miagolando perché voleva uscire. Lora emerse da un sonno profondo e senza sogni. Le ci volle un momento per rendersi conto che c'era un gattino nella sua stanza, un gattino per niente comune, anche se in quel momento si comportava né più né meno come un gatto qualsiasi. Scese dal letto e lo fece uscire dalla porta sul retro. Era presto, dormivano ancora tutti. Il micino scomparve con fare dignitoso fra i cavoli e Lora rivolse il pensiero alle emozioni della sera precedente. Cercò di riviverle, ma non ci riuscì, ricordava solo di averle provate. Il panico che aveva scosso le sue carni non era più reale dell'ultima bufera d'inverno. Era stato violento finché era durato, un attacco invisibile, un brandello di vita strappato al suo intreccio. Ma ora, alla memoria, glielo sottoponeva come una fredda fetta di esperienza, come un pezzo di pudding rimasto a indurire tutta la notte nella dispensa. Non aveva importanza. Il terrore era stato un episodio sporadico che avrebbe avuto conseguenze sul suo futuro, se anche ora fosse riuscita a riviverlo. Avrebbe scoperto che non racchiudeva per lei alcun messaggio. Si rammaricava tuttavia di non essere capace di ricatturare lo stato d'animo che era venuto poi, quando era rimasta seduta immobile, assorta in quei pensieri così saggi su Satana. Le era sembrato che quelle meditazioni avessero un significato profondo. Le era stato concesso di sedere ai piedi del suo padrone, per così dire, ammessa alla sua intimità, e le era stata offerta la preziosissima occasione di scrutare a fondo nella sua natura. Ma anche questo era passato. Ripercorsi nella memoria, i suoi pensieri sembravano del genere più banale e Lora sentiva in realtà di sapere sul diavolo molto poco. Per il momento c'era il gattino, la garanzia che avrebbe appreso di più. Aceto! Chiamò e udì la sua risposta, un tamburellante zampettare fra le foglie di cavolo. Lora avrebbe voluto che dedicasse parte della sua attenzione a lei invece di essere così insistente e allegramente micio, ma era il suo demone, su questo non c'era dubbio. E lei era una strega, l'erede di un'antica arte magica di incantesimi levigati dal lungo uso, la padrona di strani poteri che erano entrati nel bricco di Titus. Perché quello era sicuramente l'inizio, e un ottimo inizio per la verità. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Vedeva già Titus chino sulla valigia. La tradizione dei Willhouse non tollerava piselli sotto il materasso. Benché cercasse di riflettere con chiarezza sulla situazione, di afferrarla, ricordò, quello era il termine spiacevolmente zelante che Caroline avrebbe usato, la sua attenzione continuava a svicolare verso altre cose: l'improvviso movimento obliquo delle gocce d'acqua che luccicavano sulle foglie di cavolo, o l'affinità fra i cuori arruffati e marroni dei girasoli e la spazzola che Mrs. Leek usava per i pavimenti, appoggiata sul davanzale della cucina. Doveva aver piovuto forte quella notte. La terra era umida e gonfia e l'aria così fresca che le venne da sbadigliare. Si sentiva le membra pesanti ed era pervasa dall'appagamento di chi si è appena aperto a una nuova vita. Per tutta la notte era rimasta sprofondata nel nulla e da così poco era emersa da quella marea liberatoria che non poteva provare molto interesse per ciò che giaceva abbandonato sulla riva. Le palpebre le si chiudevano. Chiamando il gattino, tornò a letto e in un attimo si riaddormentò. Dormiva ancora quando Mrs. Leek le portò la colazione. I tuoni l'hanno tenuta sveglia, signorina? Lora scosse la testa. Non li ho neanche sentiti. Mrs. Leek sembrava davvero stupita. Che bella cosa avere la coscienza in pace, osservò. Lora si stiracchiò, si mise a sedere sul letto e cominciò a raccontarle di Aceto. Sembrava quello il suo vero risveglio. L'altro era stato un sogno. Mrs. Leek era ben disposta ad accogliere l'animale, a patto che su Jim non creasse situazioni spiacevoli. Jim non era Mr. Leek, bensì un gatto tigrato color albicocca, molto vecchio e piuttosto spelacchiato. Allora non sembrava affatto un attaccabrighe, ma Mrs. Leek aveva un'idea un po' diversa del suo carattere. Jim si riteneva un come me, non c'è nessuno, disse. Dopo colazione, Lora e Aceto vennero convocati in cucina per la cerimonia delle presentazioni. Jim stava facendo un po' di toilette, teneva la zampa posteriore tesa verso l'alto per toglierla di torno mentre si occupava della pancia. Niente avrebbe potuto essere più appropriato della manovra di avvicinamento umile e deferente di Aceto. Jim gli lanciò un'occhiata e continuò a leccarsi. Mrs. Leek disse che sarebbero andati d'accordo. Jim si teneva sempre sulle sue, ma lei aveva già capito che il vecchio gatto aveva preso in simpatia il vicino di Miss Willhouse. Così promise ad Aceto un po' del coniglio di Jim per cena. Mrs. Leek non condivideva la teoria, diffusa fra la gente di campagna, che i gatti dovessero badare a se stessi. Sanno ragionare proprio come noi, diceva. Perché dovrebbero mangiare un topo se non ne hanno voglia? Bussava di continuo alla porta del salottino portando bocconcini per Aceto, ma faceva bene attenzione a lasciare che fosse Lora a offrirglieli con le sue mani. Da quando Titus era arrivato a Great Mop, Mrs. Leek si era tenuta in disparte. Conosceva le buone maniere, non era stata a servizio all'Azarcour per niente. Presi singolarmente, Titus e sua zia erano magari due esseri umani, ma insieme diventavano signori. Mrs. Leek si lamentò della propria posizione e a quella si attenne rigorosamente. Lora se ne accorse con dispiacere, fece diversi tentativi per convincerla a venire fuori da dietro il suo grembiule bianco, ma senza risultati e sapendo che non ne avrebbe ottenuti finché Titus fosse rimasto in paese. Non che a Mrs. Leek Titus non fosse simpatico, anzi, ne aveva un'ottima opinione, ma era proprio quell'ottima opinione a reggere una barriera di rispetto tanto insormontabile. Tuttavia, dove Lora aveva fallito, riuscì Aceto. Dal momento in cui Jim aveva sancito il suo giudizio positivo su di lei, Mrs. Leek aveva cominciato a sgelarsi. Lora saggiamente decise di non sottolineare troppo quel cambiamento, seguì l'esempio del diavolo e rimase tranquilla in attesa di una mossa decisiva. E infatti non dovette aspettare molto. Una sera Mrs. Leek domandò a Miss Willhouse se avesse voglia di uscire con lei dopo cena. Faceva piacere prendere una boccata d'aria prima di andare a letto. Miss Willhouse non chiedeva di meglio. Per lei sarebbe andata bene quella sera stessa se Mrs. Leek non aveva altro da fare. Mrs. Leek rispose che avrebbe finito di riordinare il più in fretta possibile, dopodiché sarebbe stata a sua disposizione. Ciò non di meno, erano quasi le 10:30 quando Mrs. Leek bussò alla porta del salotto. Lora aveva smesso di aspettarla, immaginando che Mr. Leek o qualche inconveniente domestico l'avessero trattenuta. Tuttavia, era prontissima a uscire tanto quanto ad andare a letto e Mrs. Leek non fece alcun accenno allora. In effetti, per abitudini di Great Mop, non era particolarmente tardi e sebbene la notte fosse buia, Lora notò che per strada c'erano parecchie persone. Arrivarono in silenzio fino alla pietra miliare, quindi svoltarono in un sentiero che risaliva la collina costeggiando il bosco. Anche altri avevano imboccato quella strada. Il cancello di legno era aperto e più in là risuonavano altre voci. Fu allora che Lora intuì la verità e si voltò a guardare la sua compagna. «Dove mi sta portando?» chiese. Mrs. Leek non rispose, ma nel buio le prese la mano. Non c'era bisogno di altre spiegazioni. Andavano al Sabba delle Streghe. Anche Mrs. Leek era una strega dall'aria matronale come Agnes Sampton, e l'avrebbe scortata e protetta. La notte era piena di voci. Accanto a loro nel buio si udiva lo scalpiccio di passi rustici. Quando arrivarono sulla sommità della collina, il vento leggero portò loro incontro un suono tenue e continuo, simile a una musica. Lora si ricordò del giovane Billy Thomas che, tormentato dal mal di denti, aveva suonato l'armonica per tutta la notte. Rise e Mrs. Leek le strinse la mano. Il luogo di incontro era un po' più avanti e quando vi giunsero Lora si era ormai abituata all'oscurità. Riusciva a distinguere una folla di persone che si aggiravano in un grande campo, sotto i cespugli ardevano lampade rudimentali, dagli alberi pendevano un paio di ghirlande di carta. A una prima occhiata aveva avuto l'impressione che le streghe e gli stregoni radunati lì stessero danzando, ma ora la musica si era interrotta e tutti si limitavano a camminare. Avevano un'aria di astratta allegria che le ricordava i ricevimenti della Primrose League. Una coppia di torelli osservava il Sabba da un prato confinante. Lora non aveva il dono della mondanalità, non era mai riuscita a divertirsi a una festa, tuttavia sperava che quello sarebbe stato un trattenimento diverso e più esilarante. Entrò nel campo con una disposizione d'animo più che propizia, tanto che nemmeno Mr. Gordon, che piantava gli occhi addosso con fare inquisitorio a ogni nuovo venuto prima di lasciargli varcare il cancello, ed era ghindato con una gran coccarda come un maestro di cerimonie, riuscì a smontarla. «Vecchio caprone!» esclamò Mrs. Leek in tono di sprezzante divertimento quando fu sicura che Mr. Gordon non poteva più sentirla. «Crede di poterci tenere tutti sotto anche qui, come in paese!» «Mr. Jones c'è?» si informò Lora. Mrs. Leek scosse la testa e scoppiò a ridere. «Mr. Gordon non lo lascia venire!» «Penserà che non sia il posto adatto per un prete!» Forse era un bene che Mr. Gordon fosse di vedute così ristrette. Nonostante l'esempio di Mr. Lewis, il vecchio pastore che leggeva le scritture durante le funzioni, poteva essere imbarazzante che a Mr. John fosse permesso di partecipare al sabba. Ma evidentemente la ragione non era quella. Mrs. Leek stava attaccando quelle spiegazioni quando tutto a un tratto si interruppe, tossicchiò con fare rispettoso e sprofondò in un lungo inchino. Davanti a loro c'era un'anziana signora con un portamento da regina e un impermeabile di cui si sarebbe vergognata anche una zingara. Accolse la riverenza di Mrs. Leek con un cenno del capo, poi si rivolse a Lora. «Sono Miss Larpen e lei deve essere Miss Willhouse». La voce che aveva parlato era limpida come quella di una campanella e priva di colore, come se il tempo ne avesse lavato via tutti i sentimenti umani tranne la superbia. La mano che indugeva in quella di Lora era leggera come la zampa di un uccello. Un guanto sottile la avvolgeva come una membrana, e attraverso il guanto Lora sentì le ossa esili e le pietre aguzze degli anelli. «Molto tempo fa», riprese Miss Larpen, «ho avuto il piacere di conoscere un suo prozio, il Comodoro Willhouse». «Oh cielo!» pensò Lora in un attimo di smarrimento. «Il prozio Demetrius era uno stregone?» Del resto, Miss Larpen sembrava una strega così perfetta che era difficile immaginarsela in compagnia di gentiluomini qualsiasi. Miss Larpen sembrò leggerle nel pensiero. «A caos!» aggiunse in tono rassicurante. Lora alzò gli occhi per rispondere, ma Miss Larpen era scomparsa. Al suo posto c'era Miss Carloe, affettata e altera, come se volesse impadronirsi della nobiltà dell'altra. Portava sul viso una veletta pois. Non appena riconobbe Lora, assunse un'aria di deliziata sorpresa e subito dopo, squittendo come un pipistrello, sgusciò via e si perse nel buio. In quel momento, un giovane sconosciuto le si avvicinò e le cinse rispettosamente la vita. A quanto pareva, volevano che ballasse. Non sentiva nessuna musica, ma danzò come meglio poteva, attenendosi al ritmo del respiro sulla sua guancia. La danza fu breve. Evidentemente non aveva soddisfatto le aspettative del suo compagno, che dopo qualche giro la depositò accanto ai cespugli. Non si erano scambiati nemmeno una parola. Lora si era sentita in dovere di dire qualcosa, ma non era riuscita a trovare il modo giusto per rompere il ghiaccio. Difficilmente avrebbe potuto tessere le lodi della pista. Uno sconforto familiare cominciò a calare su di lei. Nonostante tutte le sue speranze, non si sarebbe divertita. Anche da strega sembrava proprio che in società fosse destinata all'insuccesso. Il primo sabba non le avrebbe aperto prospettive più vivaci del suo primo ballo. Ricordava i tempi delle feste nel Somerset, i balli dopo le battute di caccia e quelli della contea nelle sale pubbliche piene di spifferi. Anche quando era animata dalle migliori intenzioni, non riusciva mai a divertirsi. La prima ora poteva ancora andare, ma il resto era un crescendo di passività e di noia. Lo sforzo di non dire le stesse cose mentre ballava per la seconda volta con un cavaliere e insieme l'obbligo di non discostarsene troppo. Il controllo da esercitare sulle palpebre, la fatica di trasformare gli sbadigli in sorrisi, l'umiliante consapevolezza che non c'era altro da aspettarsi se non il ritorno a casa. Quello almeno era piacevole. Come erano piacevoli l'idea della cena al termine del viaggio in carrozza e il sollievo di lasciarsi finalmente andare all'appetito e alla sonnolenza senza più bisogno di nasconderli. Ma quelle erano gioie secondarie, dei piaceri in vista dei quali vengono organizzati i balli, lei non sapeva nulla. Guardava i ballerini passare e si domandava quale fosse l'incantesimo che stregava loro e non lei. Che cosa le spingeva a uscire nel cuore della notte, ad attaccare ghirlande di carta agli alberi, ad accendere una fila di candele nel fosso per poi saltellare tutti insieme sull'erba selvatica? Amici, nemici e perfetti estranei? Le tornò in mente il fatale paragone con il ballo della Primrose League. Siccome non si divertiva, se la prendeva con l'evento. Ma la colpa era sua. Era lei che non se l'era mai cavata bene alle feste, non aveva uno spirito da sabba. Miss Larpent, sì, che si stava divertendo. Laura si vide guizzare davanti il suo cappellino, ma Miss Larpent si era divertita senz'altro anche a Chaos. Questi pensieri deprimenti furono interrotti da Emily la Rossa, che si staccò piroettando dalle braccia del suo cavaliere, afferrò Laura e la trascinò di nuovo nella danza. Ballare con Emily le piaceva. La giovane sciatta, anemica e smunta, che aveva visto bighellonare in giro per il paese, danzava con un fervore che annientava qualsiasi esitazione. Volteggiavano sempre più veloci, fusi in un'unica figura, come due soli splendenti che rotano fiammeggiando in un'indiscutibile catastrofe. Un ciuffo di capelli rossi si slegò e accarezzò il volto di Laura. Il contatto la fece fremere da capo a piedi, chiuse gli occhi e si tuffò nell'oblio, insieme a Emily. Avrebbe potuto ballare fino all'ultima scintilla dei suoi tacchi. Ma, ahimè, il destino non prevede quel lieto fine e all'apice della danza Emily le venne sottratta da Mr. Jowl, il veterinario. Laura aprì gli occhi e vide il suo viso pallido sparire fra la folla, come la luna si tuffa fra le nuvole. Emily era molto richiesta e non c'era da stupirsene. Passava di mano in mano come una torcia e a ogni passaggio i capelli le si scioglievano un po' di più. Il sabba si stava riscaldando e ballavano tutti, persino Laura. Per un po' Mrs. Leek mostrò di occuparsi ancora di lei. Compareva improvvisamente al suo fianco per chiedere se si divertisse e lanciandole un'occhiata si dileguava prima di aver ricevuto risposta. Oppure, con un gesto vago, le indicava un uomo o una donna che le stava indirizzando un impercettibile inchino. Allora, in silenzio, Laura porgeva la mano e si lasciava risucchiare dalle danze per essere poi subito abbandonato e rapita da qualcun altro. L'etichetta di un sabba sembrava consistere in un'unica regola: non fare mai a lungo la stessa cosa. La gente andava e veniva, figure e schieramenti mutavano di continuo. A volte i ballerini erano in coppia, altre saltavano in cerchio intorno a un danzatore particolarmente agile, altre ancora si prendevano tutti per mano e partivano al galoppo per il campo. A metà di un'ordinatissima quadriglia, presieduta dalle signorine Larpen, si misero improvvisamente a giocare a rimpiattino. A dispetto della coccarda di Mr. Gordon non c'era nessun maestro di cerimonie. Un unico, misterioso impulso sembrava guidare il gruppo. Volteggiavano tutti come uno stormo di passeri. Dopo un paio d'ore, Laura cominciò a sentirsi stordita e confusa. Approfittando della generale indifferenza alle forme, si districò dalle braccia di Mr. Gordon non per ballare con qualcun altro, bensì per andarsi a sedere tranquilla al riparo dei cespugli. Si chiese da dove venisse la musica. L'aveva sentita distintamente mentre saliva su per la collina, ma dal momento in cui era entrata nel campo l'aveva persa. Ora che osservava gli altri, la sentiva di nuovo. Quando si avvicinavano, la musica si sentiva più forte, quando si ritiravano nel buio suoniva con loro, come se emanasse dai ballerini stessi e aleggiasse sopra le loro teste, simile a un vibrante fluvio. Era una musica strana, un sottofondo incessante, acuto e senza melodia, come zanzare in una torrida camera da letto o una trebbiatrice in lontananza. Ma a parte questo aveva un che di vagamento umano, un respiro metallico come di tromboni che segnassero il tempo. E quando i ballerini si prendevano per mano e piroettavano in cerchio, la musica balzava su e giù insieme a loro, così simile a quella di un organetto delle giostre che per un attimo Laura l'immaginò a cavallo di destrieri e draghi che si alzavano e si abbassavano, gli uni con le narici rosso sangue, gli altri con la testa e la cresta di un gallo. Le candele ardevano nel fosso asciutto. Sebbene sopra di loro i rami dei biancospini scricchiolassero mossi dal vento notturno, le fiammelle si protendevano verso il cielo senza vacillare. Illuminati così dal basso, i ballerini sembravano di statura più che umana, i corpi allungati nell'oscurità come a emulare le ombre gigantesche che proiettavano tutto intorno. L'aria era carica dell'odore dell'erba calpestata. Ormai Mrs. Leek si era dimenticata di Laura. Ballava la scozzese con un giovane magro che portava le maniche arrotolate sugli avambracci tatuati. I chiodi delle sue scarpe brillavano alla luce delle candele e un ricciolo gli pendeva davanti agli occhi. Mrs. Leek ballava molto bene, i suoi piedi guizzavano avanti e indietro, sciolti come una lingua. Al momento di cambiare figura si lasciava cadere in avanti per fare un giro piegata sul braccio del giovane. I suoi piedi, benché fossero per aria, si muovevano a passo di danza e appena rimessi a terra riprendevano la cadenza mai interrotta. Laura la osservava con ammirazione. Anche a un sabba di streghe, Mrs. Leek era sempre una donna estremamente a moto. Il grembiule bianco quasi non le si era nemmeno stropicciato, rimaneva padrona di sé come un gatto che osserva un topo e teneva gli occhi posati sul viso del giovane come se stesse ascoltando un sermone. Manteneva un certo contegno, certo più di tanti altri. Mister Gordon se ne stava in disparte, battendo un piede in terra e scuotendo la testa, più simile che mai al toro della fattoria. Miss Carlo pregava tutti quanti di guardare il buco che il porcospino le aveva fatto nella gamba con un morso, e Emily la rossa, mezza nuda e con una candela in ciascuna mano, ballava intorno a un albero facendogli di tanto in tanto una riverenza, la bocca atteggiata a un sorriso fisso e senza vita come quello di un cadavere. Anche Miss Minnie e Miss Jane si erano molto lasciate andare. Sedevano a una certa distanza dai ballerini, smembrando una pernice fredda e spettegolando con Mrs. Dewley, la levatrice. I loro vecchi colli scarni erano tesi da un'orrenda curiosità. Miss Minnie, che si copriva con la mano la metà inferiore della faccia per nascondere il lavorio della bocca, aveva dimenticato di addentare la carne e si protendeva in avanti. Miss Jane ascoltava con altrettanta bramosia e interrogava la levatrice, ma non appena le giungevano le risposte si girava dall'altra parte con brividi civettuoli, fingendo di turarsi le orecchie o minacciando di dare un osso in testa alla sorella. Laura distolse lo sguardo, si rannicchiò un po' di più contro i cespugli. Di nuovo i ballerini virarono dirigendosi verso il lato opposto del campo e la loro musica si ritirò con loro. Sperava che sarebbero rimasti lontani perché la loro vicinanza la turbava. Non che la impaurissero o le suscitassero ripugnanza, ma quando si avvicinavano e sentiva le loro ombre addensarsi sulla sua testa, la coglieva un'indefinibile agitazione, nuovamente sostituita, non appena se ne andavano, da un senso di oppressione. Non aveva per niente sonno, eppure più di una volta si sorprese a perdere il filo dei propri pensieri, come quando ci si addormenta in treno. Si chiese che ora fosse e alzò gli occhi a consultare le stelle, ma una nube informe copriva il cielo. Laura si rassegnò. Non c'era altro da fare che aspettare, anche se non sapeva cosa, che infine Mrs. Leek arrivasse come uno chaperon dopo la cena di mezzanotte e dicesse: «Bene, mia cara, ora ti devo proprio riportare a casa», o che improvvisamente al primo canto del gallo la compagnia si alzasse in volo come uno stormo sempre più fitto e lei con loro.